Da domani il Salone del Mobile apre le porte anche al grande pubblico, ma come si fa ad orientarsi fra più di 2500 espositori alla ricerca dell'idea giusta per rivoluzionare, per esempio, il salotto di casa? Marco Romanelli, critico e consulente di Cosmit. I pezzi migliori si legano per me sempre a un discorso di identificazione di tendenza e di trend. È il tentativo di evidenziare quelli che stanno lavorando, diciamo, in una prospettiva di futuro. Le creazioni in vetro, una garanzia, sono i prodotti di glass come panche o tavolinetti poco decorati, ideale continuazione del minimal, danno un valore aggiunto all'arredo, così come i pezzi realizzati in legno. Mattiazzi propone una poltroncina spigolosa che sembra passata dalle mani di un pittore cubista. Per le ossa è la sedia disegnata dal promettente Francesco Faccin. È fatta di pelle tesa su una struttura di legno che è molto simile a uno scheletro in qualche modo. È nata con l'idea di fare una sedia molto italiana da vendere, ecco, non solo da guardare. E Nicola De Ponti per Valsecchi pensa ai più giovani, presentando la libreria Twin Box, dove colorate scatole e reggilibro si alternano ai più spartani piani in legno. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.